I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. I announced today that I'm forming a presidential exploratory committee. I'm not just starting a campaign, though. I'm beginning a conversation with you, with America, because we all need to be part of the discussion if we're all going to be part of the solution. Mamma mia, quanto tempo sembra trascorso da quando timidamente su YouTube, che YouTube non era mica ancora YouTube che adesso, scritto tutto maiuscolo, enorme, una potenza come, non so, l'impero mediatico di Turner negli anni 90, insomma YouTube, come grande fratello, grandissimo fratello, apparve questo spezzone di Hillary Clinton che disse che non solo voleva porre la sua candidatura a presidente degli Stati Uniti d'America, ma voleva cominciare una conversazione con il suo paese. Poi le cose, le sorti di quella candidatura che sembrava inevitabile e al tempo stesso invincibile furono nefaste. Le primarie bocciarono clamorosamente la grande macchina elettorale di Hillary Clinton, ci fu lo strappo all'interno del Partito Democratico e l'inizio della grande rincorsa di Barack Obama. Tutta questa ormai non è proprio storia, ma insomma è una cronaca accertata dei fatti avvenuti nel corso del biennio 2007-2008, ma oggi si aggiunge un altro capitolo a questa interessantissima e infinita vicenda ed è legata a una indiscrezione che è qualcosa di più di una indiscrezione, perché viene sostenuta da personalità dell'informazione americana molto attendibili, con a supporto personalità dello staff di Bill Clinton, di Barack Obama, naturalmente segretate, e l'indiscrezione riguarda la possibile vicina proposta che la nascente amministrazione Obama farebbe a Hillary Clinton di occupare la poltrona di segretario di Stato, ovvero la poltrona attualmente ancora occupata in questi ultimi giorni da Condoleezza Rice nella amministrazione Bush. Ed è una notizia notevole, perché in un certo senso fa capire ancor meglio, in questo work in progress anche di analisi, no, di conoscenza, di esplorazione che stiamo svolgendo in questi giorni, qual è la strategia e secondo quali tattiche si muove il nascente governo della nazione americana, quello che sarà guidato da Barack Obama. Chiamare Hillary Clinton vuol dire tante cose. Se vogliamo vederla maliziosamente in negativo, vuol dire non lasciarla fuori, quindi al momento in cui sta per cominciare un lavoro veramente difficile e una scommessa veramente alta, non avere una possibile, anzi due possibili voci critiche di grandissima influenza e impatto come quella di Hillary, che potrebbe dire io ve l'avevo detto, ma soprattutto quella ancora più incontrollabile di Bill Clinton, che direbbe ma che avete fatto, no, ai suoi compagni di partito, elettori democratici, può far molto comodo. Naturalmente una Clinton dentro l'amministrazione vuol dire anche un Bill Clinton dentro, vicino, nei paraggi della amministrazione, e quindi sarebbe, come dire, annullato questo potenziale pericolo in fieri se un scenario di questo genere si dovesse concretizzare. Al tempo stesso ci sono altri ragionamenti che vanno fatti. Per esempio, una Hillary Clinton segretaria di Stato è un personaggio di grande rilevanza, grande prestigio, grande know-how. Metterla a contatto allorché Barack Obama e i suoi si dovranno concentrare essenzialmente sullo sgretolare il dramma economico che sta in questo momento avvolgendo la nazione, affidare a Hillary Clinton ad esempio i rapporti con l'irrequieto e potentissimo generale David Petraeus, che sta per ora sovrintendendo all'andamento degli affari in Medio Oriente. Non ne parla più nessuno, ma l'esercito americano è ancora lì in forze, la situazione è in veloce mutazione, i tempi di una possibile agenda di ritiro sono qualcosa di cui non si parla più. Allora, mettere tutto ciò in mano a una personalità internazionalmente stimatissima come Hillary Clinton sarebbe un altro ottimo affare. E poi c'è un terzo dato, ma tenete presente, queste sono ancora voci, può darsi che le cose vadano assai diversamente, può darsi che a Hillary venga proposta un'altra poltrona, può darsi che i concorrenti di Hillary per il posto di segretario di Stato, nella fattispecie il governatore di New Mexico, Bill Richardson, oppure John Kerry, no? Amico sostenitore di Hillary Clinton per tutta la campagna, nonché candidato sconfitto da George W. Bush nel 2004, insomma, se le cose dovessero andare diversamente, Hillary potrebbe saltare fuori in un'altra poltrona dell'amministrazione. Però ci sono tanti indizi sparsi e su questi indizi sta ragionando in questo momento, stanno ragionando i media americani. Ad esempio, una passione sempre confessata da Barack Obama per un libro che poi è la storia di un'idea. Il libro si chiama Team of Rivals, è un libro scritto da Doris Kearns Goodwin 2 o 3 anni fa e racconta di come Abramo Lincoln, una volta vinta la sua formidabile campagna elettorale del 1860, decidesse di mettere insieme nel proprio gabinetto proprio i suoi principali, più fieri, no? Avversari, radunandoli tutti insieme per fare una specie di dream team con il quale prendere per le corna un paio di questioni spinose come una guerra civile e la questione della schiavitù. Se funzionò allora, perché non dovrebbe funzionare adesso per un personaggio altrettanto, anzi direi più ambizioso del vecchio Abramo, che risponde al nome di Barack Obama, che potrebbe proprio decidere di formare a sua volta una super squadra con tutto il talento politico a disposizione, continuando a seguire naturalmente anche quella intuizione bipartisan che fa sì che lunedì prossimo, è stato già annunciato e confermato, Barack Obama tra l'altro incontrerà l'ex candidato repubblicano nonché suo avversario cavalleresco John McCain. Si parla all'interno della squadra di transizione di Obama di una riunione che servirà a definire i modi per lavorare insieme. Anche in questo caso, no, nel Dream Team di Barack Obama potrebbe addirittura entrare, no? Team of Rivals, squadra di rivali, di ex avversari, addirittura John McCain. Per ora l'unica cosa sicura è che a un certo punto della sera di giovedì è partito un aereo alla volta di Chicago proveniente da New York. A bordo c'era Hillary Clinton e adesso, pochi minuti fa, è arrivata la conferma che quell'aereo per Chicago Hillary Clinton non l'aveva fatta per andare a visitare il Millennium Park, ma per andare a casa di Barack Obama a parlare naturalmente di quelle che continuano ad essere definite questioni private. I was blinding towards death, the Quran's mute. If you burn them all together, you get close to the truth still. They're pouring over Sanskrit under Ivy League moons, while shadows lengthen in the sun. Cast on a school of meditation built to soften the times and hold us at the center while the spiral winds. It's knocking over fences, crossing property lines. For winds cry until it comes. It's the summer man, searching towards c'è Fox News che in questo momento sta dando l'annuncio che con ogni probabilità si andrà al recount in Minnesota per un seggio senatoriale ancora, che Al Franken e Norm Coleman non hanno intenzione di concedere l'un l'altro, anche perché ballano su 200 voti che poi una volta contano e ce li ha uno, la volta successiva li contano e ce l'ha l'altro. L'exequo non vale. Non ho capito il recount decisivo di che cosa terrà conto, ma di fatto è un margine minimo. E Al Franken, questo giornalista, anzi questo comico, giornalista satirico, trasferito armi e bagagli in politica, non molla l'osso, anche perché ha investito un sacco di soldi, anche un sacco di soldi suoi, in questa campagna elettorale. Tra l'altro vi annuncio che domenica per la prima volta si vedrà sugli schermi televisivi, non so esattamente chi la replicherà, ma vi garantisco che si vedrà, o comunque si vedrà su YouTube, la prima apparizione, la prima intervista concessa da Barack Obama da presidente eletto. Il programma che ha avuto l'onore è 60 Minutes, uno dei magazine più rispettati d'America. Il giornalista è Steve Croft, uno che praticamente ha passato l'ultimo anno e mezzo nella macchina subito dietro quella di Barack Obama. La messa in onda americana è per la sera di domenica, quindi la notte di domenica, l'una di notte italiana, ora italiana. Ci saranno poi naturalmente sia su YouTube che su varie televisioni modo di vedere e di seguire questo esordio di Obama da presidente. Prima pagina. Allora andiamo in Cina, dove mi sembra che il latte alla melamina, oltre a provocare i danni che sappiamo, bambini intossicati, qualcuno purtroppo è anche morto, comincia davvero a dare alla testa, perché ci sono delle cronache piuttosto macabre che arrivano dall'Hebei, che è questa provincia del nord dove peraltro è scoppiato il casus belli, perché ci sono degli ispettori della compagnia di latte, la Mengniu, spero di pronunciarlo bene, che si ritrovano in fin di vita perché sono stati aspettati alla fine della giornata di lavoro da due allevatori che, armati di mazze e bastoni, li hanno pestati ferocemente. A quanto pare questi due ispettori di questa compagnia vecchia scuola non avevano accettato di una partita di latte fresco, evidentemente contaminato la melamina. Uno dei due diceva no, non è il caso perché è contaminata, il secondo lo ha spalleggiato e questo è il risultato. Cioè, c'è stata questa rappresaglia a fine serata, a fine lavoro, e la notizia risale al 5 novembre e da quel giorno questi due sfortunati ispettori sono in gravissime condizioni. Marcano visita. Tra l'altro proprio ieri è arrivata invece la notizia che un centinaio di famiglie cinesi probabilmente muoveranno causa, faranno azioni legali contro la Sanlu, che è la più importante di queste compagnie coinvolte nello scandalo del latte, che, come ci ha spiegato qualche giorno fa il nostro amico Daniele Barbone, è sull'orlo del fallimento anche per queste cause che si prevedono. Ci sono già 15 avvocati che si sono mossi e hanno dato la notizia alla stampa, quindi vedremo una sorta di civil action, per dirla così, in salsa cinese. Dunque, altre notizie che arrivano ultima ora dagli Stati Uniti riguardano gli ormai, si direbbe, inevitabili California Fire, gli incendi in California sono ormai una componente, no, di quel vivere in paradiso alla temperatura dell'inferno, come dicono gli americani. Di fatto la scelta di vivere in California continua ad avere questi estremi di bellezza e di orrore, e alla voce orrore vanno sicuramente iscritti ormai questi incendi, che non sono neanche più stagionali ma attraversano come gli asparagi, no? Si trovano lungo tutti i 12 mesi. Sono già bruciate 100 case nella contea di Santa Barbara. In questo momento gli incendi non sono sotto controllo e comincia a partire, no, questa catena di Sant'Antonio di notizie allarmistiche, fino a quando il vento non girerà. E poi un'altra notizia americana per tornare alle abitudini della presidenza che sta subentrando e a come verranno utilizzati i media a questo proposito. È una cosa che ci interessa in qualche modo anche di Striscio, no? Per il semplice lavoro che facciamo davanti a un microfono. Ebbene, una volta alla settimana, come molti voi sapranno, davanti a un microfono si è messo fin dai tempi di Roosevelt anche il presidente degli Stati Uniti d'America. Nel weekend veniva rilasciata a tutto il paese una comunicazione da parte del presidente, che di solito poi non sempre, anzi non necessariamente, toccava argomenti di grande ingombro, no? Di grande ingombro sociopolitico. Spesso trattava di cose un po' più piccole, risposte a lettere rivolte dai cittadini, un tono più colloquiale e più confidenziale. Ebbene, anche in questo Barack Obama vuole tener conto della tecnologia imperante, la stessa tecnologia che l'ha portato fino alla vittoria delle elezioni, per cui il video della comunicazione settimanale di Barack Obama, caro Emiliano, sarà disponibile su YouTube. È il segno dei tempi. È il segno dei tempi, durerà 4 minuti e verrà diffuso via YouTube e attraverso il sito change.gov, che è il sito che raccoglie, oltre alle domande di lavoro, 140.000 mi sembra siano le domande di lavoro per entrare a far parte dello staff della nuova amministrazione, raccoglie anche tutte le cronache e appunto le comunicazioni come quelle settimanali del presidente del periodo della transizione. Quando un capo di Stato occidentale annuncia che presto vedrà il Dalai Lama, Stefano, di solito che fa il governo cinese? Si arrabbia, come al solito manda la nota ufficiale alle stampe dicendo non bisogna farlo, e in questo caso è finito nel mirino il presidente francese Nicolas Sarkozy, che tra l'altro, sicuramente i più attenti dei nostri ascoltatori ricorderanno, già quest'estate in tempi di Olimpiadi fu al centro di polemiche, di boicottaggi di prodotti francesi. Se non ricordo male, l'8 agosto alla cerimonia d'apertura si prese anche una bella bordata di fischi quando passò la scuola francese e venne inquadrato in Mondovisione. Questa volta Sarkozy ha detto che l'ha annunciato che il 6 dicembre prossimo, quindi tra pochissimi giorni, in Polonia vedrà il Dalai Lama, e allora è scattata la ritorsione cinese che ha detto state attenti che ci saranno ricadute negative sulle relazioni e quindi anche sugli accordi economici tra paesi. C'è questa nota, sempre quella, che dice chiediamo alla Francia di considerare gli interessi generali e a preservare il principio di una sola Cina. L'effetto però è anche quello sempre lo stesso, cioè il governante di turno occidentale che finisce nel mirino dei cinesi non cambia una virgola del suo programma e va avanti per la sua strada. E infatti Sarkozy oggi ai giornalisti ha risposto e insomma ha detto sono convinto che abbiamo bisogno della Cina per regolare le questioni del mondo, ma sono entusiasta di andare in Polonia e incontrare il Dalai Lama. Infine vi annuncio che tra pochi minuti, dopo le notizie di borsa, abbiamo ospite Federico Rampini. Chiacchiereremo un po' attorno a questa linea rossa, no? Che congiunge ormai sulla stampa americana compatta la nascente amministrazione con quella per molti versi leggendaria di Franklin Delano Roosevelt. Cominceremo a indagare i gradi di parentela, e poi mi voglio complimentare, caro Emiliano, con i nostri ascoltatori. Qui abbiamo formato una classe di politologi. Beh, sono dentro la notizia. Per esempio Dan chiede come sta Laura Bush, Joel chiede la Palin si è fatta sentire oggi, così. You dunque, tante, come vi stiamo raccontando giorno per giorno, sono le voci che così sussurrano, mormorano, provano a spiegare, ad analizzare, ad approfondire la imminente ascesa alla Casa Bianca di Barack Obama. Vinta l'elezione e superata anche l'emozione, anche se c'è chi scrive che l'America non l'ha mica superata l'emozione, anzi ha una specie di dipendenza da atmosfera elettorale, sì, sono anche un po' cambiati, sono anche un po' spostati i punti di osservazione nei confronti di quest'uomo tanto scrutinato, ma forse ancora in parte misterioso, che è Barack Obama. E ne parliamo oggi con un nostro gradito ospite e amico, che è Federico Rampini, per cominciare a verificare, come vi abbiamo già annunciato in giorni scorsi, insieme a lui, quella che sta diventando sempre più intensamente la dipendenza, no? Il modello, la provenienza, l'eredità politica del Barack Obama presidente eletto, ovvero i paragoni che adesso non si hanno più paura di fare. E nella fattispecie vorremmo parlare un po' di questo asse molto frequentato, molto trafficato in questi giorni tra Barack Obama e Franklin Delano Roosevelt, insieme a Federico, che poi prima di tutto salutiamo. Tra l'altro abbiamo avuto di recente ospite presentandoci il suo ultimo libro, che si chiama 100.000 punture di spillo, scritto a quattro mani insieme a Carlo De Benedetti e con la partecipazione di Francesco Daveri, un libro uscito da Mondadori pochi giorni or sono. Buon pomeriggio, Federico. Buon pomeriggio. Allora, avrai intercettato anche tu, no, articoli, editoriali, saggi, saggetti e quant'altro, che contrariamente a quello che hanno fatto poi i suoi avversari, che così gli hanno dato del comunista, del socialista, del pericoloso anti-americano, ma non hanno avuto il tempo di organizzare forse una teoria d'attacco che avrebbe potuto avere più efficacia del previsto. Ma insomma, adesso ci si rende conto, in un certo senso, che il modello più credibile di Barack Obama sia il New Deal di Roosevelt, un po' perché le condizioni, soprattutto economiche, si somigliano, un po' perché l'approccio che riporta al centro lo Stato pare avere una ispirazione consimile. Tu che ne pensi? Ma penso che effettivamente il parallelismo storico è quasi automatico, perché il passaggio del 1932-33, perché nel 32, alla fine del 32 Roosevelt vinse le elezioni e si insediò alla Casa Bianca nel marzo del 33, a quell'epoca il passaggio, la transizione tra due amministrazioni era ancora più lunga e più lenta di quanto sia oggi. E fu un passaggio tra due culture politiche, perché il predecessore di Roosevelt, Herbert Hoover, che era stato il presidente del 1929, del grande crack, aveva effettivamente delle somiglianze, certo, impressionanti con George Bush oggi, nel senso che era un ideologo della assoluta sovranità e autonomia dei mercati. Era convinto che meno lo Stato si mischiasse dell'economia e meglio era, e quindi aveva adottato un atteggiamento di non interventismo, di laissez-faire, certo, nei confronti dell'inizio della grande crisi. E con Roosevelt la rottura, la svolta fu totale, fu proprio l'inizio di una nuova epoca, con un lancio di grandi programmi di investimenti pubblici nelle infrastrutture, la costruzione di un welfare state, di uno Stato sociale, una serie di programmi e di conquiste che poi hanno segnato per decenni l'America, addirittura hanno condizionato poi anche tanti presidenti repubblicani che non hanno avuto il coraggio di rinnegare l'eredità positiva di Roosevelt, fino a un altro momento di rottura storica, che fu il 1980 con Ronald Reagan. Certo. Ecco, ma la sensazione che ho un po' io, almeno proprio, anzi, da parte degli editorialisti, no? Che dovrebbero essere naturalmente i più informati, i meno soggetti alla sorpresa, è che proprio questa eventualità di tensione statalista, magari, che si va esprimendo da parte di Obama, anche come eventuale provvedimento, insomma, cura a una situazione generale molto dissestata della finanza e dell'economia americana, li prenda un po' di sorpresa, come se a lungo ipnotizzati dal coefficiente passionale della campagna elettorale di Barack Obama, adesso che si cominciano a prospettare, anche se siamo lontani dai fatti, ma insomma dei provvedimenti reali, fattuali, e si comincia appunto a parlare di ruolo diverso e più centrale dello Stato, si dica: ah no, ma come, era di questo che si trattava. Può essere che ci sia stata, se non un misunderstanding, comunque un leggero slittamento, diciamo, dell'attenzione nei confronti di Obama, e che l'America si trovi ad avere un presidente che non è esattamente quello che ha rincorso a lungo negli ultimi 20-22 mesi? Ma sicuramente c'è stato un progressivo slittamento di linguaggio, di sensibilità, di programmi, dovuto non tanto al fatto che Barack Obama abbia improvvisamente gettato la maschera, abbia rivelato una mentalità statalista o socialista che prima aveva tenuto nascosta agli elettori americani, quanto al fatto che in parallelo con la campagna elettorale è andata aggravandosi drammaticamente una crisi economica che potrebbe essere la più grave che l'America e il mondo intero abbiano conosciuto dal 1929, dagli anni 30. Aggiungerei che grande è la confusione ideologica sotto il cielo, perché in realtà anche nel campo repubblicano ci sono stati dei momenti di smarrimento, delle contraddizioni enormi. Non dimentichiamo che è l'attuale segretario al tesoro, Henry Paulson, ex banchiere della Goldman Sachs, nominato da George Bush, ad avere lanciato un piano da 700 miliardi di dollari per salvare le banche americane, per salvare Wall Street. Allora, i primi ad aver impugnato l'arma dello statalismo quando le grida di dolore venivano dai banchieri di Wall Street sono stati i repubblicani. Certo. E una parola su queste prospettive che cominciano a trapelare, no? Questa questione che fa quella famosa distribuzione del benessere, la frasetta di cui Obama si rese responsabile chiacchierando con Joe l'idraulico, che poi è diventata il tormentone della parte finale delle elezioni, Federico, sia stata in realtà non così casuale, piuttosto invece, no, un po' il pesce pilota di una visione statalista, forse all'origine del personaggio Obama, che è questo che voglio cercare di dirti. In un certo senso, per necessità, ora ne parla, ma forse ce l'ha avuta sempre ben chiara dentro di sé, e io ho il sospetto che gli americani, soprattutto certi americani d'occasione, democratici d'occasione, non l'abbiano percepito. Che ne pensi? Sì, è vero che quando fu pronunciata quella frase redistribuzione di ricchezza ci fu una reazione quasi da panico, come se stessero arrivando i bolscevichi al potere insieme con Barack Obama. In realtà è da tempo che è in atto una riflessione, non da parte di radicali socialisti, ma di una gran parte del Partito Democratico, ma di economisti progressisti americani, sul fatto che in questi ultimi anni si sono determinati degli squilibri gravissimi all'interno della società americana. Da molti anni la crescita, anche quando c'erano anni di crescita economica, questa crescita in realtà non si distribuiva equamente in tutta la società, le diseguaglianze sociali sono aumentate a dismisura, si è proprio incrinato un patto sociale. È vero che l'America è un paese dove si accetta, c'è un'accettazione molto più diffusa che da noi delle regole dell'economia di mercato. Gli americani storicamente hanno sempre accettato degli alti livelli di diseguaglianza, purché comunque lo sviluppo economico andasse un po' a beneficio di tutti. Loro erano disposti disposti anche ad accettare le grandi fortune, i grandi patrimoni di Bill Gates, di Warren Buffett. Quello che è successo negli ultimi anni però è che solo le grandi ricchezze, solo i grandi patrimoni ricavavano benefici dalla crescita, certo. E invece il vasto ceto medio vedeva addirittura regredire il proprio potere d'acquisto. Quindi si è rotto qualcosa in quel meccanismo, e adesso chi ha votato Obama probabilmente è disposto ad accettare politiche fiscali un po' più redistributive di prima. Io non parlerei di statalismo, non dimentichiamo che comunque l'America parte da livelli di spesa pubblica, di intervento statale nell'economia molto più bassi, certo, della media dei paesi, certo, europei. Va bene, ringraziamo Federico Rampini di questi suoi interventi. Vi ricordo ancora il titolo del suo nuovo libro, che è 100.000 punture di spillo, come il mondo deve trovare il modo di stimolarsi, di trovare nuove strade, uscito da pochi giorni. Sull'argomento in questione e soprattutto sulle risposte che Obama è atteso a dare all'America, naturalmente torneremo a ragionare. Got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils in dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind blowing. Devils in dust. I got God on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing, can turn your heart black, you can trust. It'll take a God-filled soul, feel it. Devils in dust. Va bene, siamo in conclusione di un'altra settimana di osservatorio internazionale delle grandi dinamiche che si muovono a destra, a sinistra, a est e a ovest. Ci pigliamo un attimo di turismo mentale, naturalmente l'unico che riusciamo a produrre dai microfoni di una radio, e torniamo allora a parlarvi di un amico di Jefferson Ming che si chiama Gabriele Battaglia, che ci ha già condotto a spasso insieme a lui raccontandoci il suo viaggio nello Xinjiang. È un fotografo, è un blogger, è soprattutto un appassionato di Cina, che tra l'altro ha un sito dal nome complicatissimo, ve lo ripeto, comunque www.chenying, che si scrive C-H-E-N, Linetta, Y-I-N-G.net. Lì troverete le belle foto, soprattutto di volti cinesi, che ha scattato in particolare durante questo viaggio nello Xinjiang, che è una delle più grandi province della Cina, anzi è la più grande, si trova ad ovest e gode di una maggioranza uigura, ovvero musulmana. Bene, dopo avercelo descritto, no, dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista umano, ecco come Gabriele Battaglia in quell'area della Cina ha colto e ci riesce a descrivere proprio la presenza, per l'appunto, di fede, fede musulmana in Cina. L'elemento che si vede ovunque, molto presente, è quello della presenza delle moschee piuttosto che di altri simboli della religione islamica. Tutto questo ha avuto, diciamo così, dal nostro punto di vista, sia in positivo che in negativo. In negativo il fatto che, per esempio, molte vestigia del passato, e mi riferisco nello specifico ai alle rovine buddiste, grotte buddiste che risalgono a prima dell'avvento dell'Islam, sono state distrutte, cioè in parte asportate da archeologi occidentali, in parte poi distrutte dagli iconoclasti musulmani. Quindi questo, che in genere è uno degli itinerari turistici che vengono proposti, in realtà non è così interessante come ci si potrebbe aspettare, proprio perché rimane poco di quelle vestigia del passato. D'altro canto, però, noi siamo, insomma, la stessa presenza oltre che dell'arte araba, islamica, anzi, per meglio dire, la presenza della carne quasi onnipresente, della carne di pecora al posto della carne di maiale, che è l'alimento base invece nel resto della Cina, è caratterizzante proprio a livello sensitivo, sia a livello dello sguardo che a livello degli odori e dei rumori. La sensazione della carne di pecora, però, anche a guardare meglio, oltre i sensi primari, no? una parvenza di intolleranza percepibile in quest'area della Cina. Proprio per restare, no? Per continuare a interrogare Battaglia sul tema della presenza dell'Islam, gli chiediamo se durante questo viaggio avventuroso abbia mai avuto paura. No, io devo dire, nel mio limitatissimo viaggio non ho percepito nulla di tutto ciò. So dei fatti che sono successi, io non li ho visti, non li ho sentiti. Gli unici elementi di così che mi rimandavano a questo situazione sono stati dei lunghi convogli militari che mi è capitato di incontrare sulla strada. Mi riferisco al fatto che su una strada magari poco più che sterrata tu sei su un taxi magari e sei obbligato a uscire di strada, aspettare su non la definisco neanche una piazzola, fuori strada, letteralmente fuori strada, sei lì ad aspettare mezz'ora che scorra un convoglio fatto di carri armati, camion che trascinano cannoni e centinaia e centinaia di soldati. Forse vi ricorderete, no? Quando era tempo di Olimpiadi, le cronache, le ipotesi anche preoccupanti che arrivavano da quella zona della Cina, i possibili movimenti, le possibili iniziative dei terroristi uiguri che proprio da quelle parti hanno le loro basi. Ma torniamo ancora a concludere la nostra chiacchierata, il nostro viaggio immaginario insieme a Gabriele Battaglia nello Xinjiang, attraverso la sua descrizione, no, del suo compagno, della guida turistica che lo ha accompagnato lungo tutti gli spostamenti in quella parte della Cina. Questo per esempio è un cinese Han nato lì e totalmente integrato. Questo è un ex suonatore di tromba in pensione, che adesso ha pensione abbastanza, poi a 55 anni, insomma, che scarrozza in giro viaggiatori turisti con questa jeep, e lui è totalmente integrato. E l'uomo, un po' l'ho chiamato Mr. Wolf, perché è quello che risolve i problemi, no? Trattando con le autorità cinesi, piuttosto che se c'è bisogno di un lascio passare, di un visto, eccetera, eccetera. Dopodiché mi è successo invece in altri episodi, per esempio, di andare a mangiare in un ristorante a Cucia, una delle città che erano le ex oasi lungo, diciamo, il percorso nord della Via della Seta, e lì mi è capitato di andare a mangiare un ristorante uiguro con il taxista locale che mi portava in giro, che è cinese Han, e ho percepito proprio una diversa accoglienza, nel senso, quando io ci andavo da solo erano tutti sorrisi, disponibilità, interesse nei miei confronti. Ma noi con il cinese Han c'era della tensione. Bene, grazie a Gabriele Battaglia, grazie a averci fatto assaporare lo Xinjiang, e grazie anche per la descrizione, questo strano personaggio, no? Il pensionato trombettista che finisce a fare la guida turistica. A proposito di musica, c'è una notizia triste che molti di voi avranno saputo, altri fans magari è giusto invece che la sappiano. Se n'è andato, è morto a 62 anni Mitch Mitchell, il batterista della band, del trio, no? Del mitico trio di Jimi Hendrix, gli Experience, è anche l'ultimo rimasto in vita dopo che prima Jimi tanti anni fa e poi Noel Redding, il bassista di quella formazione dai formidabili capelli crespi ma anche dal formidabile talento musicale. L'ultimo rimasto in vita era Mitch Mitchell, è morto in circostanze ancora non appurate, in una camera d'albergo mentre girava il mondo con una band di musicisti veterani come lui, continuando instancabilmente a suonare quelle canzoni. E poi dicono che il rock è giovane, alla faccia. Comunque, questo è Jefferson Ming, io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico. L'indirizzo mail a cui potete scrivere è jeffersonming@radio24.it. Il programma, anche questa puntata, va in replica stasera alle 9, altrimenti buon weekend a tutti e ci risentiamo alle 4 in diretta qui da Radio 24 la settimana prossima, lunedì. 都是假象，不是你们想象，无所谓真假，社会本来就是这样，废物会有怎样，别相信又怎样，仿佛骑着游戏的人就心跳变价，狗狗说着非常灵敏，可以闻到很多东西，却又色盲，黑白分辨不清，观众也就跟着相信，最重要的是对得起自己不变的道理，高手过招，戴着面具，显得我的动机先硬，我回家去，打坐去学生养性，沉默的人。